Se accendi un giorno a caso la tua TV, ti accorgi della finzione. I veri programmi non esistono più, dei reality ne ho pieni coglioni. Batti le mani perché c'è lo zoo, su 105 c'è lo zoo. Alza le mani perché c'è lo zoo, lo zoo, lo zoo. Batti le mani perché c'è lo zoo, su 105 c'è lo zoo. Alza le mani perché c'è lo zoo, lo zoo, lo zoo. Accendo la TV e vedo un mare di stronzate. La major mette il cash ma vuole il disco dell'estate. Crollano gli ascolti, allora fanno gossip. E quel che cerca una persona è la poltrona. Inventano cazzate per riempire le puntate. Tra mille trasmissioni ascolto solo lo zoo. Perché c'è lo zoo, su 105 c'è lo zoo. Alza le mani perché c'è lo zoo, lo zoo, lo zoo. Batti le mani perché c'è lo zoo, su 105 c'è lo zoo. Alza le mani perché c'è lo zoo, lo zoo, lo zoo.